Ferry Boat, in viaggio verso l'economia sociale. Argante, il traghettatore, buongiorno. Puntata dedicata alle scuole, all'educazione nelle scuole. Sappiamo tutti che è un punto cardine per i nuovi processi di condivisione culturale. Parliamo di arte, di energia e di raccolta differenziata. Art for Kids è l'iniziativa che a Milano da martedì tenterà di avvicinare i bambini e gli adolescenti all'arte contemporanea. Una mostra in Corso Magenta 10 organizzata da Emma Gravagnuolo e Roberta Lietti. Le opere sono state scelte fra artisti emergenti ma anche affermati e hanno dei criteri precisi, quelli di colpire l'immaginario creativo di questi bambini. Il progetto sostiene economicamente l'iniziativa no profit dei bambini cardiopatici nel mondo. Sono partite le prime energie di A proposito di scuola e ovviamente parliamo di energie. È un'iniziativa molto singolare, curata e ideata da Germano Gemini, che è presidente di Socialize. Buongiorno Germano Gemini. Buongiorno. Parliamo di una gara per produrre energia nelle scuole. Come funziona questa gara? Ma sì, è una gara che punta a produrre il maggior quantitativo possibile di kilowattora attraverso uno strumento, insomma, singolare ma comune, che sono le biciclette. Biciclette collegate a una dinamo e ad una serie di piccoli strumenti elettronici che consentono appunto la trasformazione dell'energia cinetica della ruota della bicicletta in corrente elettrica a 220, proprio quella che usiamo normalmente nelle nostre case. L'iniziativa comincia proprio a Milano in 18 scuole elementari e medie, dove avete posizionato 10 biciclette. Cosa succede in queste scuole? Succede che queste scuole da una parte sono impegnate in un percorso formativo e didattico con dei laboratori veri e propri a tema naturalmente energia e corrente elettrica in particolar modo, dall'altra diventano le scuole un punto di riferimento per il proprio territorio, per il proprio quartiere, nel caso di Milano parliamo delle zone, per socializzare, mettere in movimento dell'energia sociale capace di diffondere attraverso il principio più semplice, che è quello del passaparola e del coinvolgimento diretto, i temi del progetto, quindi appunto l'energia in chiave sostenibilità, attenzione ai consumi individuali, alle fonti di produzione della corrente elettrica, all'efficienza in particolar modo, insomma, temi che riteniamo essere molto importanti, e le scuole si aprono completamente al territorio organizzando una serie di piccole iniziative durante i giorni settimanali e soprattutto nel weekend, capaci di attirare genitori, associazioni di zona, cittadini interessati al tema o incuriositi semplicemente al tema, che vengono a scuola e pedalano un po'. Alcuni pedalano parecchio perché sono particolarmente allenati, altri naturalmente pedalano un po' meno, però insomma, si creano dei momenti di aggregazione sociale molto spontanea ma molto partecipata, dove insomma, i nonni, i bambini, i genitori, sportivi e pantofolai sono un po' tutti insieme, con l'obiettivo principale di far vincere la propria scuola la competizione, ma anche e soprattutto di far vincere una nuova visione della produzione, certo, e del consumo. E comunque un'azione dimostrativa è molto profonda e divertente, che comunque servirà a produrre energia. L'energia, che cosa ne farete? La corrente elettrica verrà utilizzata per animare il Natale cittadino, in questo caso attraverso un'installazione diffusa sul territorio che si chiama La Foresta Incantata. Sono una decina di alberelli rappresentativi delle 9 zone del Comune di Milano e uno che rappresenta invece proprio l'unione territoriale, quindi il comune in sé. Questi alberelli vengono distribuiti sulle 9 zone per poi ritrovarsi sotto Natale, proprio in prossimità del Natale, in centro a Milano, a rappresentare questa unione di intenti e questa partecipazione collettiva al progetto dei valori. Grazie Germano Gemini, bellissima iniziativa e complimenti. Chiudiamo con l'ultima notizia che riguarda le scuole. Venerdì 7 dicembre si conclude una campagna che era il gruppo San Pellegrino nell'ambito delle iniziative di responsabilità sociale, ha avviato già ad ottobre in alcune scuole di Milano, Sondrio e Firenze. L'obiettivo è quello di sensibilizzare i bambini alla raccolta differenziata della plastica. La campagna è stata realizzata con giunti progetti educativi e le aziende di igiene urbana, che sono quelle che si occupano ovviamente della raccolta sia a Milano che a Sondrio e a Firenze. L'obiettivo innovativo e di dare vita a R Generation, ovvero la generazione del riciclo rispettoso dell'ambiente in quanto fonte del proprio benessere. Grazie di averci seguito, vi ricordo che su Facebook cliccate mi piace ferribot-radio24, grazie ad Anita Panizza in redazione e a Carmelo Lauricella in regia. Buona giornata.